La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, eccoci puntuali all'appuntamento con il cinema su Radio 24. Questa è La rosa purpurea, un saluto da Franco D'Assisti in questa settimana di cima, di buon cinema in sala, con poco meno di una decina di nuove proposte, con qualche film importante, con numerose star che arrivano sul grande schermo in Italia, e con anche un film italiano di un regista sempre interessante da seguire come Sergio Castellitto. Allora, cominciamo subito con il ritorno di Kevin Costner. Vi ho parlato proprio di numerose star che tornano sullo schermo italiano. Adesso bisognerà anche fare un ragionamento sul fatto che Kevin Costner sia ancora da considerare una star, o lo sia stata, sicuramente lo è stata, è stata la principale star forse in un certo periodo della fine degli anni 90, e poi pian pianino si è un po' perso, ma è sempre un attore che ha un suo pubblico e che è interessante scoprire quali progetti vuole incrociare. Con Black or White, che è diretto da Mike Binder e nel quale recita insieme a un cast non particolarmente altisonante, Costner, che è sempre stato anche un po' un paladino dei diritti civili, si sposta sul terreno del rapporto fra bianchi e neri nell'America contemporanea, rapporto che tante volte viene dato per assodato, per superato, che invece ha ancora tanti punti di criticità. Nella storia di un avvocato di successo che ha appena perso la moglie in un incidente d'auto e che qualche anno prima aveva perso anche la figlia 18enne proprio mentre dava alla luce una bambina, Eloise, la sua nipotina, avuta con un ragazzo di colore, ed ecco che questa nipotina bellissima diventa l'oggetto del contendere fra lui, che vorrebbe farla crescere diciamo alla sua maniera, in seguimento di un American Dream duro e puro, mentre dall'altra parte c'è la famiglia, soprattutto rappresentata dalla nonna paterna, che vorrebbe portarla nei quartieri, appunto nei sobborghi neri della città, e farla crescere con quella che dovrebbe essere la sua famiglia di sangue. Tutto questo si trascina fino al tribunale, ma la chiave di questo Black or White, riuscita o meno lo vedremo fra poco, è quella di provare a lavorare anche di commedia dentro questo film e non solo di intensità drammatica. Stiamo parlando della vita di una bambina. Lei ha una famiglia. Lei ha un padre. E se non le fai capire adesso che combatterai per lei, non sentirà mai nel suo cuore che vale qualcosa. Lo capisci? Tutti quanti voi siete tutti preziosi e perfetti. E per tutti voi varrebbe la pena lottare per starvi vicino. È una vera e propria dramedy, come dicono gli americani. C'è un po' dramma, un po' commedia, questo Black or White, che anche in certi punti riesce a non essere eccessivamente politically correct, quindi anche a cercare una via di affermare un'idea, per quanto controversa possa essere, almeno quella, diciamo, del personaggio di Kevin Costner, cioè che questa bambina debba crescere con quello che è il nonno in un'atmosfera nella quale è sempre cresciuto e con le sicurezze della quale è stata sempre dotata. Insomma, meglio l'abitudine e il contesto in cui si è vissuti fino a quel momento che non il ritorno a una radice di sangue, che però forse culturalmente in quel momento non sarebbe la scelta migliore. Diventa anche legal thriller a un certo punto, con numerose scene in tribunale e con una disputa che diventa davvero drammatica. Non si tratta di bianchi o neri, va bene, ma solo di giusto o sbagliato. Quello è un drogato. Senti, lo sappiamo, Elliot. E convinceremo anche il giudice. Devi soltanto mantenere la calma. Qui non puoi passarci sopra con il bulldozer come fai di solito, Elliot. Che hai detto? Ripeti. Ehi, Elliot, siamo tutti nella stessa squadra. Lui ha distrutto mia figlia, Eldridge. Ha distrutto la mia bambina. Non gli lascerò fare lo stesso con mia nipote. Eccoci in collegamento con Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buongiorno a tutti. Allora Boris, Black or White, quasi un titolo che ci invita a fare una scelta su questo film, che ha tanti difetti, ha tanti piccoli o non piccoli punti che andrebbero aggiustati, ma che ha forse ancora, e questo direi che è molto figlio anche della presenza di Kevin Costner, il coraggio di andare a lavorare su un terreno che pian piano il cinema sembra abbandonare, cioè votato com'è al divertimento puro e all'esplosione, agli inseguimenti e comunque alla tensione. Qui si lavora invece un po' più sul tema di quelli che sono i drammi familiari, di quella che è l'integrazione, che sembravano appunto, come dicevo prima, temi utili e giusti e di moda in quegli anni 90 in cui Costner fuorileggiava, forse oggi sembrano un po' fuori dal tempo. Forse sì o forse no, perché quello che è successo a Ferguson, il problema tra la polizia e la popolazione nera, ci fa pensare che questi temi purtroppo nell'America di Costner, anche attuale, siano molto presenti. Black or White è un film che è molto figlio di Kevin Costner, anche nella regia. Sembra quasi che Binder sia un po' sotto tutela, che sia un po' schiavo dell'icona Costner, e ne esce fuori un film piuttosto quadrato, proprio com'è l'immagine che abbiamo noi cinematografica di Kevin Costner. Non ci sono grosse sorprese in questa pellicola, tutto è trattato con quel buonismo, però in buona fede, che ha sempre pervaso la cinematografia di Costner. Alla fine, secondo me, è molto interessante, perché all'interno di quel percorso, diciamo, obbligato, di quel percorso netto che cerca sempre Costner, da Balla con i lupi in poi, nel senso di raccontare la diversità con tutto quello che è giusto dire sulla diversità, però poi c'è anche un sentiero più sfumato che lui riesce a raccontare bene. Che vuol dire questo? Vuol dire che in questo Black or White, in questa battaglia in cui c'è molta America, perché c'è il diritto di sangue sul diritto di famiglia, c'è la questione razziale innestata sugli affetti, sull'emotività, e Costner, proprio sfruttando quell'immagine che ha, ci mette qualcosa di suo, ci mette la voglia di sorridere in alcuni momenti, ci mette la voglia di dire sempre e fare la cosa giusta. Quindi, come dici tu, avrà pure molti difetti, sarà pure un film antico nella sua impostazione, nella sua struttura, ma alla fine ha la sua efficacia, è una favola grigia, né nera né bianca, che ti dice le cose giuste. Non è poco, perché secondo me ne esci in qualche modo riscaldato, ne esci in qualche modo arricchito, ed è in fondo quello che la cinematografia di Costner ha sempre fatto. Certo, no, infatti io parlavo prima, dicevo sembrerebbe fuori dal tempo, ma mi riferivo non tanto al fatto che questi temi non siano attuali, a ci picchia se lo sono, quanto al fatto che questo tipo di cinema è un cinema che era più cercato dal mainstream americano in quegli anni 90 e oggi è meno cercato. È bene che ci siano ancora della generazione di Costner e registi che cerchino un po' questa cosa. Mi è venuto in mente tra l'altro una similitudine, tu hai detto prima qualcosa di scorretto, l'ho detto anch'io, del resto lo dice, mi è venuta in mente una similitudine con lo Sniper di Eastwood. Chiaramente siamo su due piani totalmente diversi, ma il tentativo di qualcuno che ha sempre detto le cose in un modo, anche un po' di allargare gli orizzonti, i punti di vista e di dire qualcosa di scomodo anche a un certo punto, lì non dico incensando, ma evidenziando, sottolineando l'attività di questo cecchino americano. Qui il fatto che questa ragazzina, è la tesi del film, deve vivere con il nonno bianco e di successo e non necessariamente ritornare nel ghetto, ma non per un fatto di scelte, come dicevi tu, etiche, ma di scelte proprio personali. È meglio per lei che le cose vadano in questo caso in questo modo. La rosa purpurea. Ancora la rosa purpurea, eccoci insieme per parlare di un film, un altro film che arriva nelle sale cinematografiche italiane. È il momento di affrontare Focus, Niente è come sembra. Noi ascoltiamo subito questa clip. Voglio entrare. Forse sono qui solo per la partita. Ho chiesto chi era che gestiva il giro ad Harlem. Limehouse Kid era tuo nonno. Bucky Spurgeon è tuo padre. Padre è una parola molto generosa. E tu sei Nicky Spurgeon, ti chiamano Mellow. Sono al completo, dolcezza. Oh, andiamo, per fa... Possiamo saltiamo la parte in cui ti parlo con seduzione appena velata e ti induco a credere che c'è una clamorosa scopata in arrivo. Non ci sono clamorose scopate in arrivo. No. Neanche la seduzione è appena velata. No. È una delle scene dell'incontro fra i due personaggi principali di questo film, Focus, di Glenn Ficarra e John Requa, Niente come sembra. Decidete voi se lo troverete come Focus o come Niente come sembra, perché la pubblicistica ha fatto un po' di confusione, sembrano due titoli di uno stesso film alla fine. Nicky Spurgeon, che è interpretato da Will Smith, Margot Robbie, una sera, metti una sera a cena, come si suol dire, per caso, e un incontro, come avete visto, che ha del fuoco subito dall'inizio. Lui, un personaggio abbastanza come dire, particolare, cresciuto figlio di una famiglia di borseggiatori, ma anche molto molto smart, molto molto sveglio. Lei, che vorrebbe entrare a far parte del suo giro per architettare i colpi più audaci, bella, bionda, irresistibile. Boris, parliamo un po' di questo film di Ficarra e Requa, che ancora una volta tornano un po' a calcare il genere che gli è sempre piaciuto, cioè un action con venature di commedia e tanti depistaggi. Loro sono fatti così, scrivono bene, dirigono bene, non fanno film che rimarranno nella storia del cinema, perché forse sono così attenti alla bella calligrafia dei loro film da non riuscire a dar dentro qualcosa di speciale, qualcosa di unico. Fanno film di intrattenimento, li fanno bene. In questo caso poi si ritrovano due attori che possono far andare avanti il film con col pilota automatico. Will Smith sembra più interessato alle sue attività esterne ormai che al lavoro d'attore, parliamo della sua famiglia ma anche della sua fede religiosa, però ha un carisma cinematografico, una presenza scenica che basta e avanza per un film così elementare, un film di truffe, di action, di classico doppio giochismo, e quindi non gli serve chissà quale guizzo alla ricerca della felicità, per intenderci. Margot Robbie, l'abbiamo vista con Martin Scorsese, è un'utilissima bionda, le basta far vedere la sua bellezza, le basta far vedere quel fascino che emana con quella sensualità molto particolare ma anche un po' plastificata, li metti insieme, hanno una buona alchimia e questo basta per fare un film che è appena discreto, che mantiene l'interesse in chi sta in sala abbastanza alto, senza mai chiedere troppo allo spettatore, chiedere troppo agli attori, e alla fine temo che l'unico difetto del film sia che la clip che hai appena mandato in onda sia una delle parti migliori del film, cioè una in cui perlomeno si scherza, si fa quasi autoironia sul genere che Requa e Ficarra sanno fare così bene. Il problema del film è forse che è troppo perfetto nella sua piccolezza, ecco. Però in un sabato sera, magari con gli amici, può soddisfare assolutamente. Quello è un campo di battaglia. Sì, non dormo bene. C'è qualcuno, figliolo? Figliolo a chi? Sai perché non dormi bene? No, dimmelo. Voi con i vostri iPhone, i vostri smartphone, i vostri laptop e computer che non fanno che produrre una raffica di informazioni inutili. Senti, non c'è motivo di farsi prendere dal panico e di perdere la testa, perché stiamo arrivando alla fine. E allora, questo era Focus, Niente come sembra. Noi andiamo invece a giocare insieme con la prima traccia del nostro DVD game, come sempre due frammenti di un film da indovinare per provare a vincere l'edizione in Blu-ray, molto bella tra l'altro, di questo film. Cominciamo ad ascoltare la prima. C'è una fattoria fra North Cross e Lennox, è tutto lì, scoprilo da solo. E già che ci sei, chiediti se vale la pena di crepare per il cadavere di una donnaccia. E allora, se avete già intuito di che film si tratta, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo. Io ve lo dico sempre, il vostro indirizzo privato, perché questo ci agevola poi nel andare avanti e non inseguirvi con delle email. Qualcuno risponde il titolo giusto e poi solo l'email. Noi vi rispondiamo, guarda che avresti indovinato, non ci rispondete. Insomma, così non riusciamo a seguirvi. Per cui metteteci subito il vostro indirizzo, così ricevete a casa il pacchetto e siamo tutti sereni. Fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Ma prima sentiamo e parliamo con Boris Sollazzo di un altro film che esce in sala questa settimana. Siamo dalle parti chiaramente di un genere che ha molti estimatori, quello della parodia cinematografica. Ne abbiamo viste di parodie da Scary Movie in poi, di ogni genere, che ogni saga soprattutto che ha fatto successo, a volte parodie riuscite, a volte meno riuscite. Stavolta sotto il tritacarne di Jason Friedberg e Aaron Seltzer, oggi sono solo film diretti in coppia, c'è la saga di Fast and Furious con Super Fast e Super Furious. Ma vi! Quella cosa è ridotta male, ci vorrà un sacco di lavoro. E allora comincia. E tu lo aiuterai, perché da ora lavori per me. Cosa? Offriamo assicurazione sanitaria completa e riconosciamo gli stessi benefici anche alle coppie omosessuali. E non meno importante, abbiamo i venerdì casual. Così posso mettermi la mia strafichissima camicia hawaiana, non è mutanda col parizoma. Boris, abbiamo detto a volte riuscite, a volte non riuscite. Questa volta? Ma in verità questo è un genere talmente particolare che nasce addirittura appunto da un marchio di regia che è anche difficile dare un giudizio di questo tipo. Dovessi parlare secondo il mio gusto personale, non mi fa impazzire. Dovessi parlare dal punto di vista cinematografico più obiettivo, la verità è che queste parodie hanno un'elementarità basica, assolutamente fondata su una comicità demenziale che è vicina al grado zero della comicità. Per intenderci, da noi in Italia potrebbe essere comparata al momento da Fazzi di Aldo Giovanni e Giacomo, no? In cui darsi una bottigliata sulle parti basse fa ridere perché fa ridere, oppure la più classica delle bucce di banana. E Super Fast and Super Furious è questo, cioè è il racconto parodico di una saga che, volenti o nolenti, è entrata nel nostro immaginario collettivo con un'efficacia straordinaria e che qui viene trattata partendo dalla fisicità di attori che viene ridicolizzata attraverso anche il politicamente scorretto più estremo, e che, se vogliamo, forse in italiano diventa ancora più accentuata, perché anche il doppiaggio italiano fa in modo che questa comicità demenziale, questa follia che pervade tutto il film, venga acuita. Se cercate una comicità appena raffinata, Super Fast and Super Furious non fa per voi, vi farà solo arrabbiare. Se vi divertite appunto con le bucce di banana, con le bottiglie sui testicoli, con qualcosa di assolutamente elementare, e allora può fare per voi. Se parliamo dell'uscita il sabato sera con gli amici, consigliamo che siano solo maschi e anche un po' ubriachi. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Ci prendiamo una pausa dalle novità dell'attualità in sala per focalizzarci su un'uscita in un video molto importante, perché è stato il nostro game della scorsa settimana ed è anche una grande intervista della Rosa Purpurea per questa puntata, perché già in collegamento con noi Renzo Arbore, che sentiremo fra poco. Renzo Arbore, che fu regista del Papocchio, che era il nostro game della scorsa settimana. Buon lavoro e che il Signore sia con voi. Non si preoccupi, ma fammi una cortesia. Grazie, signori, arrivederci. Fammi una cortesia, stati vicino a me, perché lui si secca che tu sia comare. Loro notano tutto, perché questi sono cardinali. Un film che è diventato davvero un film di culto e che adesso esce in un'edizione in DVD, doppio disco, con molti contenuti speciali. È un'occasione per rivedere un cinema veramente dispari, veramente alternativo rispetto a quello che era anche in quel momento il mainstream italiano. Giulio San Giorgio di Film TV in collegamento con noi. Giulio, cosa possiamo raccontare di questo Papocchio? Sì, siamo nel 1980 e il Papa, preoccupato dell'avanzata dei buddisti e del boom di droghe e discoteche che distolgono i giovani dalla Chiesa, inaugura la TV Vaticana con uno spettacolo di varietà in mondovisione. Affida la regia, niente proprio di meno, che a Martin Scorsese, interpella la compagnia di Renzo Arbore, Roberto Benigni compreso. Ne esce veramente uno scherzo surreale, una presa in giro bonaria di Wojtyla, un film burlesco che però c'è anche scandalo perché fu sequestrato a 3 settimane dall'uscita, poi il sequestro poi decadde. Ora appunto esce in DVD con un DVD a doppio disco, la cui vera grande novità, come dicevi, è la presenza di scene inedite di quello che viene chiamato il resto del papocchio, fatto dei resti scartati del film commentate da Arbore, tra cui ci sono un monologo di Benigni sul peccato originale, ed esibizioni veramente assurde, divertenti, imbarazzanti di aspiranti candidati a Televaticano. Allora Giulio, resta con noi, fra poco le segnalazioni TV, però adesso siamo in collegamento, come dicevo, con Renzo Arbore, che voglio ringraziare per averci dato il suo tempo per raccontarci l'epopea di questo film. Ben ritrovato Renzo. Allora diceva anche Giulio San Giorgio, un film che ha avuto qualche problemino, questo che adesso esce in questa bella edizione in DVD, qualche problemino con il Vaticano, con potremmo dire quasi l'Inquisizione, almeno per quanto riguardò l'epoca, venne bloccato, poi venne riabilitato, insomma qualcosa è successo, no Renzo? Buongiorno, grazie per l'invito, grazie di parlare del papocchio. Beh, il problemino c'era, perché questo è stato veramente il primo film nella storia del cinema che scherzava sulla Chiesa, detta in maiuscolo. Io dicevo sul catechismo, perché in realtà scherzavamo sul catechismo, però era la prima volta che scherzavo sulla Chiesa, c'era addirittura un Papa, che allora era il Papa, Wojtyla, e quindi era assolutamente audace. Quando io dissi ad alcuni amici registi che io frequentavo in quel periodo, che stavo facendo un film, mi dissero: ma si può? Cioè, erano meravigliati, perché allora c'era una forma di autocensura automatica, cioè sulla Chiesa non si scherzava. Il film fu naturalmente non visto, ma lo stesso fu accusato da un procuratore della Repubblica dell'Aquila, che peraltro aveva anche offeso il film di Bertolucci, L'ultimo tango, e quindi fu ritirato, ciononostante è stato il quinto incasso di quell'anno. Fu un incasso clamoroso, assolutamente. Biglietto d'oro. Esatto, biglietto d'oro. Dopo c'erano 3 film americani, uno italiano che non ricordo, e poi il papocchio. Non che io giudichi l'incasso come certo, prova della validità. Come la chiave di lettura di un film, però infatti qua i meriti vanno ben oltre l'incasso. Per esempio quello di aver messo lì Benigni, anche lei Arbore, Benigni nell'acqua santa del Vaticano, quasi però precorrendo i tempi, perché poi è andato a spiegare i comandamenti, Roberto, no? Certo, infatti ha fatto un lungo tragitto. Sì, ma noi abbiamo sempre un po' scherzato sulla Chiesa, sul fatto che lui fosse comunista. Quando giravamo il papocchio andammo insieme a vedere il miracolo di San Gennaro a Napoli, e naturalmente ci fu il miracolo quando Benigni finalmente, su mio invito, si inginocchiò. Ma il film, ripeto, è molto rispettoso. Devo dire che dopo è stato sdoganato e credo che anche il Vaticano lo abbiano visto con simpatia. Assolutamente, infatti so che aveva, ma anche all'epoca aveva qualche sostenitore comunque anche dentro il Vaticano, no? Sì, mi arrivarono voci, erano proprio voci che insomma delle non si erano offesi, anzi si erano divertiti, insomma. Era un film, diciamo, innocente, che però per la prima volta osava scherzare sulla Chiesa. Però quando poi andammo al processo, sia io che Benigni che Massimo Schiera, che era come direttore di Rai 2, era il produttore del film, ricordo che il papocchio è stato il primo film prodotto dalla Rai. Quando andammo a deporre, insomma, la mia, diciamo, difesa fu che non c'era niente che avrebbe potuto offendere la Chiesa, cioè non c'era il crocifisso, non si scherzava. Elencai perfino le cose che ci erano venute in mente, ma che non avevamo messo per rispetto al sentimento cattolico degli italiani. Arbore, ci racconti qualcosa della lavorazione, perché so che voi avete girato 20 anni prima di Guerre Stellari, mi viene dire, di Star Wars, avete girato anche alla Reggia di Caserta, e era diventato un po' casa vostra in un certo senso. Eh beh, inevitabilmente probabilmente il cinema si impossessa di alcune cose. Noi avevamo l'autorizzazione a frequentare certe sale, compresa la stanza da letto del re borbonico Francesco, eccetera, e quindi noi girammo nella Reggia di Caserta. È stato un periodo veramente straordinario, perché Roberto Benigni addirittura schiacciava un pisolino nel letto del re, frequentavamo il bagno della regina, anche se non era efficiente, ma insomma devo dire che una volta la controfigura del Papa, un attore somigliantissimo, straordinario, tedesco, Manfred, uscì dalle stanze che erano riservate a noi e fu visto da una suora che era lì per visitare la Reggia di Caserta, che letteralmente svenne, perché incontrare il Papa, non sapendo, eccetera, nella Reggia fu per lei uno shock violentissimo. Ma poi, insomma, tante altre vicende legate a quella permanenza. Io sono legato proprio sentimentalmente per quel motivo alla Reggia di Caserta, che è una delle regge più belle del mondo. Tante storie belle come queste le si incontrano appunto in questo doppio DVD uscito adesso con il Papocchio in edizione perfetta, ripulita, restaurata, eccetera, che però è stato il primo e il penultimo degli episodi di regia di Renzo Arbore, perché poi dopo 3 anni arrivò Che mi hai portato a fare sopra Posillipo, Se non mi vuoi più bene, e poi basta. Perché? Ma perché, devo dire la verità, io ho tentato e ci sono quasi riuscito di fare un film con la tecnica con la quale poi ho fatto la radio e la televisione, cioè l'improvvisazione. E proprio la tecnica, adesso studiando le mie cose, sto scrivendo un libro adesso con Lorenzo Foschini sulla mia esperienza, io la mia televisione e anche la radio, ma soprattutto la televisione, proprio a differenza di tutta quella che si fa, il varietà televisivo che si vede, era assolutamente tutta improvvisata. Devo ricordare che un quarto d'ora prima della messa in onda io dicevo qual era il tema della serata ai protagonisti di Quelli della Notte, e con Frassica abbiamo fatto 65 puntate tutte le sere senza neanche farci una telefonata, direttamente vedendoci in onda e cominciando a dire, cioè la tecnica del jazz. Allora il cinema mi ha permesso solo relativamente di usare questa tecnica. Io speravo che nell'avvento del cinema elettronico poi si potesse improvvisare, ma non c'è niente da fare, il cinema ha bisogno di una sceneggiatura, ha bisogno di una trama che guidi, che abbia assolutamente valore. Sembra strano, il cinema è finzione, ma ha bisogno di essere credibile. Quindi ho fatto 2 film, diciamo al 50% improvvisato, perché anche FFSS, i dialoghi con Benigni, con la protagonista, sono parzialmente improvvisati, cioè erano soltanto indicati nella sceneggiatura, poi si andava a braccio, ma neanche a braccio, si andava a vedere se che cosa si poteva ricavarne. E quindi alla fine sono stato ripreso dalla televisione, perché lì effettivamente potevo fare la mia improvvisazione jazzistica che ancora oggi mi affligge. Ecco, e invece Renzo Arbore va al cinema, diciamo, con una certa periodicità? Sì, vado al cinema. Dunque, voi che vi occupate di cinema seriamente dovete tenere conto che la mia generazione era quella che quando era adolescente non aveva la televisione, aveva una radio che insomma si sentiva così così, quindi doveva andare al cinema per forza e vedere dei capolavori come abbiamo visto. Cioè io a 14 anni ho visto Umberto D, ma per dire, una storia di un vecchio pensionato tristissimo, un capolavoro di De Sica, e noi abbiamo visto tutta quella cinematografia straordinaria del dopoguerra, che era del neorealismo, le cose, e anche film di altro tipo, perché era l'unico nostro passatempo, era l'unica nostra, soprattutto in provincia. Quindi la passione è molto forte, ho vissuto quel periodo straordinario di capolavori straordinari, di inventori di cinema, perché sono stato poi successivamente amico, quando li ho conosciuti negli anni 70, attraverso anche la mia compagna, dei grandi registi, da Franco Rosi, Mario Monicelli, Gigi Magni, tutti, Federico Bellini, tutti straordinari, e quindi sono rimasto legato a quei al cinema dei grandissimi, rimpiangono un po'. Vado al cinema a vedere adesso, naturalmente, invece dei film, diciamo, scelti, e quindi non vedo tutto, per esempio film di violenza, film di grande tensione, quando leggo drammatico alla mia età sono un po' guardingo. Parafrasando un famoso motto, potremmo dire: cinema e sai cosa vedi, ecco, almeno quello. Ecco, il motto era quello della birra. Esatto, era quello della birra, riallacciandoci al papocchio. Le chiedo un'ultima cosa, Arbore. Lei ha fatto fare a Martin Scorsese il regista televisivo nel papocchio. Roba da matti. Sì, il fatto di dire a Martin Scorsese action, azione, e di fargli fare questo piccolo cameo, è stata una cosa curiosissima, che poi lui ha ricordato quando finalmente ha conosciuto Benigni. Dice: ho conosciuto questo Benigni sul set di un film così strano, dove mi aveva portato mia moglie Isabella Rossellini, perché la storia fu questa, che Isabella, mia carissima amica, veramente ragazza straordinaria, mi portò Martin Scorsese, che peraltro io ammiravo moltissimo, e poi è successo anche con David Lynch, ma questa volta non ho girato nessun film con lui. Arbore, grazie davvero per essere stato qua con noi alla Rosa Purpura a ricordarci il papocchio. Grazie a voi e grazie per quello che fate per il cinema, grazie. E allora Renzo Arbore alla Rosa Purpurea, noi torniamo a parlare invece delle segnalazioni in TV con gli amici di Film TV, con Giulio San Giorgio che è in collegamento con noi. Giulio, si impone la segnalazione domenica 8 marzo di Star Trek di Robert Wise su Rai 4 alle 17.40, anche per salutare Leonard Nimoy. Spazio, ultima frontiera, siamo nel 23° secolo, il pari capitano Kirk, al comando dell'astronave Enterprise, è chiamato a combattere una presenza aliena che minaccia la Terra. Al stanco ovviamente c'è il vulcaniano Spock, interpretato appunto dal leggendario Leonard Nimoy, che è venuto a mancare da qualche giorno. Attore teatrale e regista che con questo personaggio ha sempre avuto un rapporto d'amore e odio, tanto da intitolare un suo libro autobiografico Io non sono Spock e poi il successivo Io sono Spock, per interpretare il ruolo nei reboot di J.J. Abrams. Comincia comunque con questo film nel 79 per la regia di un maestro dei generi cinematografici come Robert Wise, la saga lunga di film dedicati a Star Trek, già al centro di una serie televisiva di culto. È un film dall'incedere televisivo, con dialoghi molto filosofici, ma al fascino magnetico delle cose di un tempo passato che parlano di un possibile tempo futuro. Ok, perfetto, tempo scaduto anche per quanto riguarda le segnalazioni TV. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, dopo il ciclone Arbore che ci ha raccontato con la sua miniera di aneddoti un passaggio davvero divertente del suo e del nostro cinema, torniamo invece al cinema da vedere in sala, i film in programmazione con Nessuno si salva da solo, dirige Sergio Castellitto, nel cast Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna Galliena, Massimo Bonetti, insomma come sempre Castellitto mette insieme attori di provata esperienza e riuscita. Noi ascoltiamo questa clip. Perché noi siamo la generazione della patacca, siamo quelli del remake. Cosa abbiamo inventato noi? Un cazzo. Però abbiamo importato, sì, abbiamo importato la festa di Halloween, abbiamo importato il sushi, abbiamo importato le polacchine dalla Polonia. No, scusa, perché adesso cosa c'hai contro la Polonia? Io non c'ho niente contro la Polonia, però prova a chiedere alla gente cosa vuole fare nella vita. Prova. La gente prova. Cosa vuole fare nella vita? No, prova a chiedere a Nicole cosa vuole fare nella vita. Nicole, ma tu cosa vuoi fare nella vita? Questo è uno degli interrogativi che si pone questo gruppo di amici. Siamo in una sorta di dramma familiare. Gaetano e Delia, coppia separata, si incontrano perché i figli devono essere mandati in vacanza e bisogna decidere cosa fare. E comincia una sorta di ping pong, quasi di partita a stilettate per capire, insomma, e più che per capire, per rinfacciare che le cose sono andate in un certo modo per colpa di uno o per colpa dell'altro. Boris, mi veniva in mente, vedendo Nessuno si salva da solo, un altro film recente italiano, quello della Comencini, quello dell'Archibugi, che un po' sullo stile di Carnage, se vogliamo, anche il cinema italiano ha ricominciato un po' a riflettere in queste sorte di sedute di autopsicanalisi, no? È un po' quello che succede anche in questo film di Castellitto. Sì, se volendo fare una battuta, se Archibugi e Polanski hanno bisogno di una casa per raccontare i sentimenti, Castellitto con l'ambizione emotiva e cinematografica che lo contraddistingue invece usa tutto il mondo, quasi. Nessuno si salva da solo è un film che rispecchia benissimo il Sergio Castellitto regista, pieno di voglia di andare sempre all'estremo, di non aver paura come succede a tanti autori italiani, di rischiare anche di arrivare a toccare toni troppo alti, troppo retorici, troppo potenti, del rischiare la soap come gli era successo con Venuto al Mondo, e questo però è un sinonimo di rischio e di libertà artistica ed emotiva che io apprezzo molto, che qui si realizza da una parte grazie alla bravura di due attori che insomma forse sono stati spesso sottovalutati come Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca, ma anche grazie al fatto che nel momento in cui Sergio Castellitto non si pone all'interno di strutture troppo complesse, come appunto in Venuto al Mondo poteva essere il macro argomento della guerra in Bosnia, ma lascia andare sciolta la briglia emotiva, dia il meglio. E qui ci racconta quanto è difficile smettere di amarsi quando ci si è amati troppo, tantissimo, quando un amore è stato sincero e totale, e quanti rimpianti, quanta nostalgia può creare questo, ma anche quanto sia impossibile ricreare la magia quando l'incantesimo è finito, quando l'incantesimo non riesce più. E come due persone che potrebbero amarsi ancora proprio per quell'incantesimo finito, perché l'amore è questo, è magia, non potranno mai tornare indietro, non si potrà mai fare retromarcia. Nei Melò di solito si raccontano grandi amori, no? Con grandi ostacoli. Qui c'è la grandezza di raccontare l'impossibilità di un grande amore, come il fatto che possa essere destinato a finire o possa semplicemente finire. Ecco, devo dire, al di là dei difetti, al di là forse di alcuni momenti in cui il tono è così alto che possa diventare stonato, il complesso del film è qualcosa che costringe lo spettatore a entrare nel film, costringe lo spettatore a essere coinvolto. Parafrasando il titolo, che tra l'altro è una frase che Roberto Vecchioni dice ai due protagonisti, quindi tornando anche alla tradizione castellittiana di coinvolgere grandi cantanti all'interno dei suoi film, nessuno si salva da solo, vale anche per il suo cinema, in qualche modo nessun film si salva da solo, ha bisogno dello spettatore. La grandezza di Castellitto sta nel fatto che per lui lo spettatore non è un fruitore passivo del suo cinema, ma è un elemento integrante del suo cinema, e questo secondo me rende questo film assolutamente da vedere e forse anche la migliore proposta della settimana. E allora andiamo a giocare ancora insieme, seconda traccia del nostro game di oggi. Qualcuno ti voleva morta e tu lo sapevi. Così andavi in giro per i locali peggiori, in cerca del bestione più grosso e cattivo, e hai trovato me. La rosa purpurea chioccia la radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo, due copie del Blu-ray di questo film che vi aspettano settimana prossima, sveliamo tutto. Adesso invece svegliamo l'ultima proposta cinematografica di questo weekend, il film di Michel Aznavichus, The Search, con Berenice Bejo, Annette Bening. Siamo nella Cecenia di fine anni 90, un bambino di 9 anni che fugge con il fratellino neonato in braccio, fugge dalla guerra dopo l'uccisione dei genitori, una sorella che lo cerca, ecco la ricerca del titolo, per tutto il film, una funzionaria di una organizzazione per i diritti umani che cerca di salvare il salvabile in mezzo a una terra davvero desolata. Quello che fai qui è straordinario, ma se alla fine porta solo a un'altra risoluzione come quella presa dalle Nazioni Unite... Aspetta un secondo, io lavoro per la Commissione dei diritti umani e ti assicuro che noi avremo una posizione completamente diversa, ne sono sicura. Ma non importa a nessuno. Che? Una commissione per i diritti umani che difende i diritti umani. E allora non fa notizia, non interessano i tuoi rapporti, sono solo scartoffie. Io non capisco perché mi parli in questo modo. Io faccio del mio meglio. Che cos'è, una gara? Non saprò occuparmi di bambini, ma il mio lavoro non è inutile. Boris, la sensazione è che Michel Aznavichus fosse più a suo agio con The Artist, che era un film muto, che non con questi dove deve parlare. Al di là della buona intenzione, ovviamente, di raccontare un dramma che abbiamo dimenticato troppo presto e di farlo con un sentimento umano apprezzabile, però i 159 minuti del film e anche la prolissità di quasi tutta la sceneggiatura e dei dialoghi non depone certo a suo favore. Beh, è un film che poteva durare esattamente la metà, e non è un'esagerazione, nel senso che non ha nessuna capacità di approfondimento e scambia la lunghezza per approfondimento verticale del problema, invece rimane sempre sulla superficialità. Volendo fare una battuta cattiva, ma purtroppo veritiera, pensavamo che il mutismo di The Artist fosse un grande esempio di cinema e di profondità, perché si riusciva a raccontare una storia, una grande storia senza parole. La verità è che forse è invece la più grande ammissione di inadeguatezza di Asvicius, che quando deve far parlare in maniera piuttosto coerente i suoi personaggi lo fa male. Se si pensa a ciò che aveva preceduto The Artist, come Ossessa and Sandicept, che era il la vena demenziale e parodica dei film sui servizi segreti, anche lì la parola era solo un pretesto e non era la centralità. Insomma, sa come farli muovere, non sa come farli parlare. In questo caso, tra l'altro, tutto è prevedibile, compresa quella Berenice Bio che diventa sempre più accessoria, nonostante sia centrale all'interno dei film di Asanevicius, bellissima, sempre un'eroina senza se e senza ma, che però diventa un po' come l'ONU in questo film, no? Piena di buone intenzioni ma assolutamente inefficace, ed è forse in questi 160 minuti l'unica cosa interessante è il rimarcare l'assoluta inutilità in questi campi di battaglia in cui i diritti umani non solo sono un optional ma sono regolarmente traditi, l'assoluta inefficacia della burocrazia del bene che rappresentano le Nazioni Unite. Davvero molto poco, bastava un cortometraggio di 10 minuti per raccontarlo, e noi ci dobbiamo sorbire 160 minuti di un melo bellico tra i peggiori. Quindi ecco, se vogliamo essere cattivi, se Castellitto era la migliore proposta della settimana, The Search è la peggiore, soprattutto perché da un premio Oscar ci si aspetta di più. E allora, con questa bocciatura noi chiudiamo la nostra trasmissione. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Siamo arrivati alla fine, lo sentite dalle note della sigla. Io vi do appuntamento a sabato prossimo qui alla Rosa Purpurea, a tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisi.